Il nuovo sindaco di Verona è un amico, Damiano, sì, devo dire che quando Damiano era diventato presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, noi abbiamo cominciato a intrattenere con quell'associazione dei rapporti che prima, insomma, era un po' più difficili da intrattenere perché era un po' arroccata, insomma, sulle posizioni standard. E il grande merito di Damiano è che di per sé crede veramente ai valori e all'aspetto sociale, per cui, insomma, al di là del suo protagonismo politico di questo periodo, sappiamo per certo che è una persona che ai valori ci crede veramente, lo fa col cuore. E ai mondiali è venuto come minimo 3-4 volte, sia agli incontri dibattiti, ma sia chiaramente a giocare sul campo con la rappresentativa dell'Associazione Italiana Calciatori, ed è stato sempre un piacere averlo, insomma. Per far capire un po' meglio ascoltatrici e ascoltatori, come si declinava questo impegno sociale, come si declina, insomma, di Tommasi? In parte si è declinato anche durante la sua carriera da calciatore professionista. Non so se vi ricordate, ma insomma, a un certo punto, dopo un anno di particolare difficoltà, lui stesso per ammissione ha voluto un ingaggio a 1500 euro, cioè lo stipendio medio di un operaio, per dire: io quest'anno voglio questi soldi e sto nel palcoscenico della Serie A con questi soldi. E questo già quando era in attività faceva capire che, insomma, le sue uscite anche valoriali non erano, come dire, di circostanza o, come dire, di facciata, ma erano sostanziali e reali. E questo l'ha connotato anche dopo, quando ha preso la guida dell'Associazione Italiana Calciatori, strambando quell'associazione al di là della difesa dei diritti dei calciatori anche su una parte valoriale e sociale, per cui al di là della partecipazione ai mondiali poi hanno fatto molte molteplici iniziative, insomma, sui temi dell'antirazzismo, dell'antidiscriminazione, e primo fra tutti, insomma, si è impegnato anche su far emergere, insomma, il calcio femminile. La settimana prossima ci saranno invece i giochi antirazzisti, un cambio di nome, ne abbiamo già parlato, ma insomma, vuoi ricordarci perché? Fondamentalmente perché diventa un'esperienza nuova. Sono passati 3 anni dall'ultima edizione dei mondiali, nel frattempo c'è stata una pandemia, ci sono state molte guerre, ma adesso c'è una guerra anche nel cuore dell'Europa, e l'idea di ripartire dal basso, con slancio, con molte associazioni, mettendo al centro il gioco, insomma, che sposta un po' la parola sport, insomma, di cui ci siamo sempre riempiti la bocca, ci sempre piaciuta, ma che sta dietro a quella che è la nascita dello sport moderno, per cui una sorta di metafora della guerra. Noi vogliamo, dopo 2 o 3 anni che abbiamo parlato di guerra alla pandemia, adesso parliamo di guerra all'Europa, in cui anche i più, fra virgolette, i più grandi agnelli sono diventati dei lupi e si riempiono la bocca di parole di guerra. Noi vogliamo destrutturare nella parte sportiva questa metafora della guerra, per cui li chiamiamo giochi. Ecco, allora anticipiamo già adesso, anzi ricordiamo, insomma, le date e il luogo, perché cambia anche il luogo. Certo, per cui siamo a Bologna, siamo nella capitale dell'Emilia Romagna, al Parco Nord, al Centro Sportivo Bonori, che è proprio a ridosso del Parco Nord, per cui alla fine di via Stalingrado, dall'8 al 10 luglio, per cui dall'8 pomeriggio, che è un venerdì, dalle 15.30 in poi, fino a domenica, fino alle 13.30, 14.30, di tutto e di più: calcio, basket, pallavolo, rugby, skate, capoeira, quidditch, e tutte le cose più particolari, insomma, una grande festa, un grande festival contro la discriminazione, un grande momento di gioco e di divertimento.